America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, siamo addirittura a finale, siamo addirittura per i 100 giorni di Donald Trump, i 100 giorni alla presidenza. Devo dire, sono 100 giorni che sembrano un'eternità, questi 100 giorni scadranno sabato, fra tre giorni. Ma in questi 100 giorni che cosa è successo? Abbastanza poco. La montagna, come dire, ha partorito il topolino e proprio per dare, come dire, un segnale di vita, ieri che cosa ha fatto Donald Trump? Ha imposto una tariffa del 20% sulle importazioni di legname dal Canada. Ecco, è una roba bizzarra. L'operazione, la decisione è arrivata attraverso il Dipartimento al Commercio, attraverso Wilbur Ross, ma come dire, per far vedere che qualche cosa si è fatto. Ma il 20% di dazio sulle importazioni di legname dal Canada certo non rappresenta la somma delle promesse che aveva fatto il candidato Donald Trump. E allora che succede? Che Trump in questi giorni sta dicendo, ma no, insomma, 100 giorni sono soltanto una scadenza simbolica, non bisogna pensare ai 100 giorni, non l'ho mai detto, dovremo vedere quelli che saranno i risultati di medio termine. Vero? Falso? Beh, sentiamo Donald Trump che parla dei suoi primi 100 giorni. Sentiamo. And our policy plans for the first 100 days. The first 100 days. What follows is my 100-day action plan. It's a contract between Donald J. Trump and the American voter. Ecco, avete sentito tre occasioni diverse, ce ne sono molte altre. 100 giorni per passare all'azione. Questo è il mio piano per i primi 100 giorni per fare l'America grande di nuovo e un contratto fra Donald J. Trump e gli elettori. Ecco, Donald Trump in questi 100 giorni evidentemente ci credeva, adesso ci crede un po' meno, però vorrebbe lo stesso avere un risultato positivo, vorrebbe che la gente approvi quello che lui ha fatto in questi 100 giorni. In realtà ha incassato parecchie sconfitte, e a parte l'abolizione di Obamacare che non è andata in porto, abbiamo avuto questo doppio decreto contro l'immigrazione islamica che poi è naufragato in tribunale, la nomina di Gorsuch, è vero, alla fine è passata del giudice per la Corte Suprema, però il Senato ha dovuto ricorrere a delle misure che riducessero la soglia necessaria per l'approvazione. Sul finanziamento della costruzione del muro al confine meridionale col Messico, beh, lì si è spaccato il partito, si è spaccata l'intesa tra Parlamento e Casa Bianca e c'è il rischio proprio su questo punto di non riuscire ad approvare il bilancio perché i repubblicani ritengono che la spesa sia troppo forte e quindi se non si riesce ad approvare il bilancio c'è il rischio della chiusura del governo americano che potrebbe coincidere proprio con il 100° giorno al governo. Dunque una situazione, come dire, non facilissima quella di Donald Trump. Per questo sta cercando di passare al contrattacco, per questo oggi, fra poco, annuncerà il suo programma di riforma fiscale. Sentiamo. We're working on the different numbers, but it's going to be much lower than it is right now. It'll be the biggest tax cut since Reagan and probably bigger than Reagan. Ecco, riforma fiscale attesa per oggi. Farò la più grande riforma fiscale mai realizzata dai tempi di Ronald Reagan, ha detto qualche tempo fa Donald Trump. Siamo un paese soffocato dalle tasse, dobbiamo cambiare questa situazione. Ecco quali sono le proposte che oggi dovrebbe fare Donald Trump. L'aliquota sui profitti societari passerà dal 35 al 15%. L'aliquota federale massima sui redditi, sul reddito delle persone fisiche, dal 39,6% al 25%. Poi Trump introdurrà minori scaglioni fiscali, minori deduzioni e sostiene, come avete sentito, che il più grande taglio della storia americana. Dunque, 100 giorni di luci e ombre. E soprattutto sulle ombre si stanno scatenando chi? Beh, si stanno scatenando i late night show. First of all, you're all fake news. I hate you all very much. First question, no, next. But Mr. President, no one has even asked a question. Doesn't matter, yet. No, next. Ecco, ieri sera, per esempio, Jimmy Fallon è stato spiritosissimo, ha fatto una serie di battute attorno a questi 100 giorni di Trump, attorno alle sue battute. Aveva come ospite, tra l'altro, John Oliver, che conduce anche lui un talk show americano di grande successo sulle news e sulle fake news. E dunque i due si sono molto divertiti. C'erano stati una gran quantità di interventi su spettacoli televisivi, radiofonici, satirici. Ma fra tutti, devo dire, quello che è stato più pungente, più divertente, poi lo imita anche benissimo, è stato Stephen Colbert con Late Night Show. Late Night Show era lo spettacolo di David Letterman. Sentiamo. Trump thinks the first 100 days thing is unfair, tweeting, no matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, and it's been a lot. Ecco, qui sentite Stephen Colbert che imita anche Donald Trump, vi dicevo, lo imita molto bene. Dice, Trump crede che il traguardo dei primi 100 giorni sia ingiusto. E poi ha twittato, non importa quanto abbiamo ottenuto entro questo ridicolo limite dei 100 giorni. E comunque è stato fatto già parecchio. Poi ha riportato anche l'intervista con l'Associated Press che Donald Trump ha concesso proprio in occasione di questi 100 giorni. E la cosa interessante è che nel transcript dell'intervista ci sono una serie di dichiarazioni e poi alla fine c'è scritto unintelligible, fra parentesi, cioè incomprensibile. E Colbert appunto ha letto tutte queste frasi con alla fine mettendo appunto questi versi che sembravano incomprensibili. Sentiamo Steve Colbert che fa questa lista di dichiarazioni di Trump unintelligible. And these were the unintelligible moments. It was stuff like this. Secretary Mnuchin is a very talented person, very smart, very successful. I mean, we're going to be doing major tax reform. It's going to be a big... Ecco, avete sentito, nella prima dice Mnuchin, il mio segretario al tesoro, molto intelligente, un uomo di grande affidabilità, sta facendo delle grandissime cose e poi e poi non si capisce cosa dice. La seconda, la riforma fiscale fantastica perché cambierà di fatto la situazione di tutti gli americani e perché... Ecco, questo è un po' il senso di quello che diceva Colbert, ma veniamo invece alla parte seria, perché poi in realtà in questi 100 giorni molte cose sono successe, abbiamo visto dei cambiamenti ai vertici della Casa Bianca, abbiamo visto soprattutto, ed è questa secondo me la cosa più importante che è successa alla fine in questi 100 giorni, la virata di 180 gradi di Donald Trump su alcune tematiche centrali che riguardano la tenuta dell'Europa, l'affidabilità della NATO, il bombardamento contro la Siria per l'utilizzo di armi chimiche, cosa che non avrebbe fatto prima, l'apertura nei confronti della Cina, il bombardamento in Afghanistan, la linea dura nei confronti della Corea del Nord. Ecco, questi poi sono gli elementi importanti, quelli di politica estera che riguardano una superpotenza come l'America. E di questo beh, si occuperanno i talk show tra virgolette seri. A parte l'intervista alla Peach, è stata un'intervista alla Fox News, e sabato mattina Face the Nation, Joe Dickerson sarà alla Casa Bianca per un'esclusiva sui 100 giorni di Donald Trump, che sarà trasmessa nel talk show del mattino, e lì si tireranno le fila non solo della politica estera ma anche delle relazioni col Congresso e di quello che saranno i prossimi 100 giorni di Donald Trump. Ci sarebbero mali altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su America24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo nei 100 giorni. Abbiamo avviato a partire da oggi le celebrazioni dei 100 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma siccome questi 100 giorni, diciamo, non hanno portato tutto quello che il presidente voleva, beh, mi viene in mente dei Rolling Stones. You can always get what you want. Non puoi sempre avere quello che vuoi, una cosa alla quale forse il viziato Donald Trump non era abituato. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!